Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Parleremo del DL rilancio, come si chiama in gergo. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha precisato che è un documento di lavoro, quello che è stato rilanciato da alcune agenzie di stampa, non è una bozza. Però vi sono già delle anticipazioni. Parleremo a questo proposito anche della fase 2 in apertura, perché alcune regioni, come anche anticipate nelle nostre GR 24, vogliono andare avanti senza attendere il 18 di maggio, quando il ministro Boccia ha già detto che probabilmente alcune regioni potranno anticipare alcune aperture, quelle previste per il 1 giugno, già il 18 maggio, e altre meno. Penso per esempio al Friuli Venezia Giulia, che va avanti, ma anche l'Alto Adige e non solo. Parleremo però anche dell'Europa, perché c'è un vertice Eurogruppo, l'oggetto è soprattutto il MES. Sono arrivate dichiarazioni sul fondo salva stati, la parte che si può utilizzare per le spese sanitarie dirette o indirette, quindi fino al 2% del PIL di un paese, che per l'Italia vuol dire circa 34-35 miliardi di euro. E visto che abbiamo già messo noi nel MES 14 miliardi di euro, dicevo, qualche dichiarazione rassicurante sulla non condizionalità di questo MES è arrivata. E parleremo dicevo anche della parte europea, e poi appunto la fase 2 e i dubbi delle imprese, i dubbi di Confindustria sulla fase 2, ma anche del mondo dell'artigianato, che sarà nostro ospite in questa puntata. Parleremo, sì, molti mi stanno già scrivendo sulla fase 2, intesa come le riaperture, come si stanno comportando gli italiani. Molta polemica sulle immagini dei navigli ieri a Milano, ne parliamo fra qualche minuto. Partiamo come sempre prima dai mercati finanziari. Devo dire che anche alla luce di alcune dichiarazioni rese oggi dalla Commissione Europea e dallo stesso Wolfgang Schäuble, che è stato per anni il ministro delle finanze tedesco Falco, hanno in qualche modo fatto capire che la BCE andrà avanti per i fatti suoi, che non accetta nessuna interferenza da parte della Corte Costituzionale tedesca, e che fa riferimento e ha come unico riferimento la Corte di Giustizia Europea. Lo dico perché, meglio leggere subito, addirittura la Commissione Europea non esclude di aprire una procedura di infrazione nei confronti del governo tedesco se questo, in seguito alla procedura della Corte Costituzionale tedesca, violasse il diritto europeo e quindi andasse contro il diritto europeo. Perché la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sugli acquisti di bond da parte della BCE potrebbe comportare conseguenze appunto sgradevoli per la Germania. Lo scrive Der Spiegel citando un'anticipazione. La Corte di Giustizia Europea ha riaffermato la sua competenza esclusiva nei confronti della Banca Centrale Europea, e solo la Corte di Giustizia Europea è competente a constatare che un atto di un'istituzione europea come la Banca Centrale Europea è o meno contrario al diritto dell'Unione. Una sentenza pronunciata in via pregiudiziale da questa Corte, come già era avvenuto, perché la Corte di Giustizia Europea disse che non c'era stata nessuna violazione del mandato della BCE nell'acquistare i titoli come aveva fatto Draghi nel 2015, e quindi dice la Corte di Giustizia, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale da questa Corte vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente. Quindi ribadisce che chi se ne frega, aggiungo io, se poi c'è una sentenza diversa nel giudice nazionale, l'unica corte che può dare un giudizio su istituzioni dell'Unione Europea è la Corte di Giustizia Europea. E Schäuble, dicevo, che adesso fa il presidente del Bundestag, ha detto dalla sentenza della Corte tedesca vi sono grossi rischi per l'euro, può succedere che in altri paesi membri dell'Unione Europea venga messa in discussione l'esistenza dell'euro, perché ogni corte nazionale può giudicare per sé. La situazione non fa piacere a nessuno, e quindi evidentemente anche Schäuble è preoccupato da quella sentenza, mentre per quello che riguarda l'Eurogruppo, ma ne parleremo fra poco, si dovrebbe essere vicini ad un accordo sul MES. Come va lo spread italiano? 240 punti. Per quello che riguarda le borse, più 1% Milano, più 0,90 Parigi, più 1,30 Francoforte, più 1,40 Londra, più 1,40 anche il Dow Jones. Banco BPM più 5,40, Prismian più 4,60, Atlantia più 4,30, CNH più 4, Buzzinice più 3,90, Campari più 3, Poste Italiane più 2, Terna più 2, Fineco più 1,90, Biper più 1,60 come Fiat Chrysler e Recordati. Fronte opposto, Moncler meno 1,80, Pirelli meno 1,70, Amplifon meno 0,70%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Aggiungo, visto che parlavamo della Banca Centrale Europea, che secondo indiscrezioni della stampa la BCE starebbe pensando anche di poter comprare corporate bond, quindi obbligazioni emesse da società, anche quando declassate a junk, cioè a spazzatura, con un rating, con un voto speculativo, all'interno del programma degli acquisti di titoli di Stato dei vari paesi. Allora, è importante questo, perché ricorderete che prima del giudizio di Standard & Poor's la settimana scorsa sul debito italiano, la Banca Centrale Europea correttamente fece sapere a Nuora, perché suocera intendesse, quindi perché capissero l'agenzia di rating, che era disponibile a comprare anche i titoli di Stato con un livello non, come si chiama in gergo, investment grade. Tradotto, era un messaggio neanche tanto velato all'agenzia di rating: guardate, e ai mercati più che all'agenzia di rating, scusatemi, guardate che se anche vi fosse un declassamento nel caso specifico del debito italiano a un livello non più che quello che si chiama livello di investimento, ma a un livello sotto, noi compreremo comunque quel debito. Ecco, analogo messaggio è arrivato oggi, perché stasera ci dovrebbe essere la decisione di Moody's sul debito italiano, e questa decisione, l'annuncio di questa decisione, ha una rilevanza anche per l'Italia, perché chiaramente permetterebbe alla Banca Centrale Europea di comprare, ripeto, obbligazioni private, cioè corporate, non dello Stato, anche quando a un livello, anche qualora fossero declassate a un livello, a un livello speculativo e non investment grade. Questo è importante perché sappiamo che quando c'è un declassamento del debito del paese sovrano, in questo caso l'Italia, viene declassato poi anche il voto, per esempio, alle banche italiane. Perché? Perché le banche italiane sono piene di titoli di Stato italiani, e quindi se abbassi il livello dell'investimento, del voto al debito italiano, vai a abbassare anche il voto alle banche che hanno debito italiano. E dire questo significa dare un messaggio ai mercati: guardate che se anche dovesse esservi un declassamento del debito italiano e conseguentemente un declassamento del voto alle banche italiane, noi possiamo continuare, potremo comprare e includere anche le obbligazioni con quel voto basso nel piano di acquisti. Ho dato Londra oggi è chiusa, chiedo Venia, è stata, diciamo, come si dice, una reazione automatica. Londra chiaramente chiusa, tutte le altre borse invece sono aperte. Per quello che riguarda invece l'Italia, allora, la Croce Rossa oggi viene citata dal Premier Giuseppe Conte come oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Conte ha ringraziato i 14 milioni di volontari e volontarie che ogni giorno in 192 paesi svolgono il lavoro, e lo spirito che anima la vostra azione è un esempio per tutti noi. Ancora, come vanno le richieste di prestiti da parte delle imprese, soprattutto la parte garantita al 100% dallo Stato? Io continuo a ricevere messaggi, avrò sfiga io, di imprenditori che mi dicono che la banca gli ha proposto invece di finanziamenti di altro genere, non il 100% garantito dallo Stato, quindi con altri canali, io non capisco. Allora, al 7 maggio le domande pervenute al fondo sono, fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono 116.000. di cui 93.000 riguardano i finanziamenti fino a 25.000 euro. Le banche, fa notare l'ABI, dal 4 al 7 maggio hanno inviato 44.000 domande al fondo di garanzia, di cui 41.000 fino a 25.000 euro. Io spero che allora a questo punto l'imbuto non sia fondo di garanzia, abbiamo provato a cercare di capirlo, non con grande successo con il Presidente. Questi dati, dice l'ABI, evidenziano lo sforzo delle banche. Che però ci sia bisogno di questi soldi e che vengano erogati dopo aver fatto le opportune verifiche, ma in tempi rapidi, ce lo dimostra in maniera indiretta un altro elemento. Allora, i prestiti su pegno. Qualcuno di voi avrà visto le foto del Monte dei Pegni in questi giorni. Ma c'è un dato. Affide, che è il leader europeo italiano del settore prestiti su pegno, ha detto che l'incremento delle operazioni tra rinnovi delle polizze e nuovi clienti nel periodo, diciamo, del lockdown, della chiusura, della quarantena rispetto al periodo precedente, c'è stato un incremento del 30%. Non sono tutti nuovi clienti che danno oggetti di valore come pegno per i prestiti, ma ci sono anche i rinnovi delle polizze, ma comunque è un più 30%. Del DL rilancio, come si dovrebbe chiamare, parleremo più avanti. Potrebbe essere la proroga per la cassa integrazione, potrebbe essere di 12 settimane, non di 18. L'ipotesi di un bonus babysitter da 1.200 euro, 331 milioni di euro per l'apertura delle scuole a settembre. E, ripeto, sono ancora, come ha chiarito il MEF, è un brogliaccio, non una bozza, è solo un documento di lavoro, per cui massima cautela. Allora, mi scrive un bancario: faccia presente agli imprenditori che se compilassero correttamente il modello 4 bis si perderebbe molto meno tempo, sono quasi tutti sbagliati. Per carità, è importante anche chiedere ai clienti, agli imprenditori di altri mi hanno detto, mi scrivono invece che hanno ricevuto il finanziamento in 10 giorni, garanzia del 100%. Ogni banca, ho la sensazione anche ogni filiale si comporta in maniera un po' diversa, però vediamo, aggiornamento 25 3, mi scrive invece un altro imprenditore che dopo aver inviato dopo 3 settimane il bilancio 2019, la bozza 2020, la banca ha detto di averlo inviato al medio credito centrale mercoledì, oggi venerdì nessuna nuova, ormai da 3 settimane. Altri mi continuano a dire che le BCC danno problemi. Io continuo a fare lo sportello, non è il modello 41 bis, è il modello 4 bis. Comunque, allora, andiamo invece su una notizia positiva. Dal gruppo Generali è arrivato uno stanziamento di 100 milioni di euro per far fronte, cioè il fondo straordinario delle Generali è di 100 milioni di euro. All'interno di questo fondo sono stati donati 1.000 tablet per garantire ai bambini e alle famiglie più in difficoltà lo svolgimento delle lezioni a distanza con gli insegnanti, le Onlus del progetto Ora di Futuro. E mi sembra un'iniziativa importante donare tablet e tutto quello che serve alle famiglie in difficoltà, alle famiglie meno abbienti soprattutto. Ancora c'è stato un botta risposta sulla la regolarizzazione del nero. Il ministro Provenzano, dei lavoratori agricoli, anche quelli in nero. Allora, Provenzano ha detto, il ministro per il sud, ha detto: il nero, non quello degli evasori, parlo degli sfruttati, non degli sfruttatori, rappresenta il 15% della forza lavoro in Italia e il 30% al sud. È una piaga che va combattuta, ma la repressione non basta, l'alternativa alla regolarizzazione è l'illegalità. Il ministro Bellanova ha detto: non affrontare il tema delle regolarizzazioni è un regalo a Salvini. Sul tema sentiamo ospite oggi di Alessio Maurizio, Effetto Giorno, il sottosegretario al lavoro Francesca Puglisi. Si tratta di una regolarizzazione di cittadini extracomunitari già presenti nel nostro paese, di circa 600.000 persone, non solo da impiegare nel settore agricolo, ma ci sono tante persone che sono già all'interno delle famiglie italiane, ad esempio le colfe e badanti, c'è anche tanto personale nel mondo dell'edilizia che sta ripartendo, e quindi questa è una delle operazioni. La mediazione trovata sarebbe un permesso di soggiorno temporaneo di 3 mesi ed è sicuramente più sicuro averli da regolari nel nostro paese piuttosto che da irregolari. L'altra cosa che intendiamo fare per trovare le persone da impiegare nel settore agricolo è permettere ai percettori di reddito di cittadinanza, ma anche di integrazione salariale attraverso la cassa integrazione o l'assegno ordinario, di poter aggiungere a quell'assegno che percepiscono, anche se lo vogliono, il reddito da appunto lavoro agricolo. Veniamo alla fase 2, il ministro Boccia ha detto confermate aperture differenziate dal 18 di maggio, resta confermato l'orientamento a procedere ad aperture differenziate per regioni sulla base delle valutazioni che perverranno dal Ministero della Salute. Ha detto Boccia, ricordo tra l'altro che in Italia vige lo stato di emergenza nazionale proclamato dal governo. L'autonomia è garantita, la regione è garantita, ma è evidente che serve un rispetto a dei valori universali della Costituzione, primo fra tutti quello della salute. Il governo, dopo aver impugnato l'attività della regione Calabria, che la Santelli ha voluto permettere, poi alcuni comuni si sono rifiutati comunque il consumo dei bar all'aperto, nei bar e ristoranti all'aperto, ha impugnato anche l'azione della provincia autonoma di Bolzano. Prendo atto, ha detto Boccia, che la provincia autonoma di Bolzano ha inserito nella sua legge che si adeguerà alle linee guida nazionali ed è un segnale di grande responsabilità. Tuttavia, poiché ha deciso di aprire ugualmente alcune attività commerciali pur in assenza delle linee guida sul lavoro, il governo non può far altro che impugnare il provvedimento limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza del lavoro. E il governatore altoatesino Compascher, giustamente, in una situazione di assoluta emergenza si è agito con decreti del Presidente del Consiglio, ma adesso con la fase 2 è doveroso riprendere in mano le nostre competenze. Siamo convinti che la nostra legge resisterà davanti alla Consulta, nonostante l'impugnazione resta comunque in vigore. Poi ha aggiunto: la nuova legge provinciale per la ripartenza dell'attività in Natale è già in vigore, libertà equivale a responsabilità. Vabbè. Ma mi sembra che ci siano anche un po' di posizioni politiche, perché io capisco tutto, ci mancherebbe, ma se il governo ti ha detto che il 18 le regioni che hanno e sicuramente ci sarà Alto Adige con bassi tassi di trasmissione di contagi e di ricoveri apriranno, sta a fare tutto sto casino per 10 giorni dopo che siamo chiusi da... ma va bene, mi sembra la stessa logica della regione Calabria, cioè logica del consenso dei singoli governatori, perché non mi venite a raccontare che adesso, cioè, uno non resiste. Il 18 molte attività nelle regioni che sono messe bene, penso parrucchiere, a parte che riaprono le altre, ma anche quelle che sono state rimandate più in là, ristoranti, bar e estetiste e parrucchieri dovrebbero essere anticipate al 18, da quello che abbiamo capito. Ora, se uno non ce la fa andare dal parrucchiere per una settimana, vabbè. Però veniamo invece a Milano. Oh, allora, prima faccio sentire il sindaco Sala. Sapete cosa è successo? Le foto ieri e i video hanno ritratto sui Navigli molta gente, età molto giovane, in molti casi senza mascherine. Non voglio fare nessun tipo di né di paternale né di qualunquismo, però insomma poi leggerò anche. Allora, cosa dicono i ristoratori? Dicono sostanzialmente: guardate che i capannelli si sono creati attorno a un ambulante che vendeva birra. C'erano 50-60 persone anche senza mascherina attorno al baracchino. Diversi ristoratori hanno avvertito le forze dell'ordine, e quando sono passati i carabinieri si sono dileguati in un minuto. La maggior parte delle coppie erano con la mascherina. Chi dice che c'era tanta gente o non c'era, o in malafede. La prospettiva di certa immagine è fuorviante, visto che sa la minaccia, venga lui a vedere, dalle 21 è il deserto. Queste alcune testimonianze raccolte dagli ristoratori. Guardate che dalle 21 sia il deserto, è ovvio, puoi fare solo a sport, è tutto chiuso. Però sentiamo Sala e poi un commento, cercando di unire anche quello che è successo invece a ristoratori e baristi due giorni fa all'Arco della Pace. Sapete, protestavano, hanno messo delle sedie vuote, poi in realtà si sono fermati. Assembramento, multati. Allora c'è qualcosa che non capisco. Comunque sentiamo prima Sala. Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso, io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi, e questo è uno di quei momenti. Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose. Noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario, e l'abbiamo visto quanto ha toccato questa città la pandemia, ma siamo in una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Questo è il punto, non è un vezzo, non è una voglia a riaprire, è una necessità, e io sto e starò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica a arrivare a fine mese. Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, non è un penultimatum, è un ultimatum. O le cose cambiano oggi, o io domani, come al solito, sarò qua a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti. Chiudo i Navigli, piuttosto che chiudo lo sport. E poi lo spiegate voi ai baristi, perché il sindaco non gli permette di vendere. Allora, per carità, io penso che evitiamo i moralismi. Magari hanno ragione in parte anche i ristoratori, che le immagini riguardavano l'assembramento solo con un ambulante, però, abbiamo detto più volte che dopo una parte emergenziale è giusto che lo Stato non sia uno Stato, diciamo, paternalistico, ma che responsabilizzi i suoi cittadini e si fidi dei suoi cittadini. Il che non vuol dire fare tutto in erba un fascio, però. Due considerazioni. Uno, i ristoratori possono dire quello che vogliono, però io ho notato personalmente, e anche molti miei colleghi, atteggiamento analogo nei parchi di questa città. Io non sono a Roma, sono a Milano, sono obbligato anche, posso neanche nei parchi, cioè quello con la mascherina, quello senza mascherina, quello con la mascherina che la tiene giù perché gli pesa, gli dà fastidio, deve parlare al telefono, deve fumarsi una sigaretta, tutti i cavoli suoi, i runners che corrono senza mascherina, i quelli in bici, alcuni ce l'hanno, altri no, è tutto così. Allora, due cose, una la dico anche al sindaco, ma l'altra al prefetto. Prefetto di Milano e sindaco Sala, non è possibile che qui, come in tutta Italia, abbiamo avuto per due mesi posti di blocco continui e poi improvvisamente tutto scompare. Mandate i vigili, la polizia, i droni, non me ne frega nulla, che tornino i poliziotti in moto, a cavallo, in bicicletta, nei parchi, che inizino a multare queste persone. Perché non può essere tutto lasciato all'incavolatura del singolo cittadino che prova a dire: scusa, mettiti la mascherina, poi finisce alle mani. No, date le multe. Tanto se uno va a prendersi l'aperitivo e paga 6 euro, non può neanche dire che non ha i soldi. Non è una classe disagiata o diciamo persone che abitano in un disagio sociale, è gente che ha i soldi per l'aperitivo, quindi ha i soldi anche per le mascherine, e vedrai che i soldi anche per pagare 250 euro di multa, perché non è possibile, o 400. Non è possibile che sia arrivata la Digos con i commercianti all'Arco della Pace e non ci fosse uno straccio di qualcuno a multare quello che stava avvenendo. Poi gli fai anche i controlli dei documenti, prendi tutto. Dopodiché, sui milanesi, sulle facce che ho visto lì, vedete che il tema non è mai giovane, vecchio, anziano, il tema è sempre coglione o non coglione. Perché tanto se sei coglione a 18 anni, a 20 anni, con le facce che abbiamo visto, ci resti anche a 50-60, al massimo c'è una speranza di redimerti nel corso degli anni. Però siccome in quei casi non puoi pretendere che tutti abbiano lo stesso tipo di senso della legalità, sarebbe bello, e per non lasciare gli altri cittadini a fare i vigili e a scontrarsi, cosa che è successo personalmente anche a me, ma in generale a scontrarsi con altri concittadini che sono evidentemente dei grandissimi coglioni. Io, se ci fosse la possibilità, prenderei nome e cognome in caso di coronavirus e di positività, tutte le spese sanitarie, dovessero mai ricoverarti, te le facciamo pagare. So che non si può, ma sarebbe bellissimo. Te le paghi tutte, siccome costano migliaia di euro, oltre te le paghi tutte, dal primo euro all'ultimo euro, vediamo se ti passa la voglia di prendere sti cavolo di aperitivi. Ma io capisco che dopo 2 mesi che uno sta chiuso in casa voglia anche di prendere il sole, fare 2 passi, vedere la ragazza, per carità. No, ma cos'è sto bisogno dell'aperitivo? Con tutti i casini che abbiamo, la cosa più importante è andare sui navigli. Sto cesso di posto pieno di ratti, non ce l'ho con i navigli, per carità, ma basta. E nei parchi, e runners con la pancia, la trippa che corrono, tutti che corrono in sto paese, ma dove cavolo andate? Sempre senza mascherina. Allora, se non ce la fai a correre con la mascherina, mi dispiace, puoi anche non correre. Non è che io posso, diciamo, rischiare un aumento del contagio perché tu devi correre e mangia di meno e bevi di meno, oppure corri con la mascherina e non rompi le scatole agli altri. Ma roba da pazzi, un paese di improvvisi sportivi, tutti con sto cavolo di... sindaco, li chiuda i navigli, glielo dico io, guardi, li chiuda. Così vediamo se la prossima volta la polizia arriverà prima, i ristoratori chiameranno prima, li chiuda sti navigli, basta. Mandi la polizia municipale nei parchi, prefetto di Milano, invece che mandarla a Digos, ai commercianti, l'Arco della Pace, mandi gli agenti in borghese, in divisa, non me ne frega nulla, nei parchi milanesi non si può. Ed è inutile continuare a dire, come mi fa qualcuno... È uguale anche in Sicilia, è uguale anche, avete visto le immagini sul lungomare di Napoli? Oh! Grandissima testa di pirla. Ma l'hai capito che metà dei contagi vengono dalla Lombardia, che metà dei morti vengono dalla Lombardia, che ci sono 0 morti in Sardegna e in Umbria da giorni, che non siamo come il resto d'Italia qui per colpa, per sfiga? Spero che un domani vi sia anche la possibilità di fare un'inchiesta su questo, seria, a morti terminati. Ma l'avete capito o no? Oppure una bella punizione sarebbe: ti passi l'estate, visto che tanto ti piacciono sti navigli, ti passi tutta l'estate, ti identifico e tu l'estate te la fai sui navigli, così ti puoi bere quanti cavolo di spritz vuoi, tu e le chiaviche. Meteo. Focus Economia. No, vedo che c'è tutto un popolo di runners che dice: ma guardi che non è obbligatorio correre con la mascherina, anzi, lei è in delirio, è impazzito, è andato, è solo lei, i bar devono dare un minimo di introito. Ma guardate che correre a distanza va bene a tutti, l'asporto va bene a tutti. Poi se lei non vuol capire, Luca, ma sa che le dico, vada a fare un po' di volontariato, su, ma vada a fare serio negli ospedali in cui c'è ancora il Covid. E non rompa le scatole con WhatsApp e con insulti, perché nessuno sta contestando le regole. Puoi correre a distanza, poi vabbè, li ho visti solo io, dai, i runners che corrono con la gente che cammina accanto senza mascherina, così, li ho visti solo io, va bene, dai, Ok, sì, sì, sì. Adesso ci abbiamo scoperto che c'è anche il partito dei runners. Benissimo. Ci mancherebbe. Adriana Ceretelli, che non è del partito dei runners, ma è da Bruxelles, ci deve aiutare a capire che sta succedendo all'Eurogruppo. Editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, hanno raggiunto l'accordo sul MES, mi sembra di aver... Hanno appena chiuso, infatti non c'è ancora la conferenza stampa, quindi non si sa ancora esattamente in che termini. Comunque l'accordo è stato assolutamente rapido, la trattativa, perché è cominciato alle 4 e già finito, quindi questo fa ben sperare. Diciamo che prima all'apertura della riunione aveva parlato Centeno, il presidente dell'Eurogruppo, dicendo appunto che i prestiti, confermando che i prestiti saranno fino al 2%, parlo del MES naturalmente, il fondo salvastati, fino al 2% del PIL, dunque nel caso dell'Italia 36-37 miliardi, per tutti alle stesse condizioni. Però il problema è che al momento non sappiamo quali sono le condizioni. Lui ha parlato di tassi bassi e di tempi di rimborso lunghi, e al tempo stesso ha ricordato che a oggi, diciamo, tra gli interventi nazionali e gli interventi europei siamo arrivati a circa 4 mila miliardi di euro investiti a sostegno dell'economia, a cui si aggiungono i 540 fatti appunto dal 540 miliardi da MES, Fondo Salva Stati, Banca Europea degli Investimenti e Fondo Sure, quello per a sostegno appunto della disoccupazione. E dopodiché appunto chiusa questa partita con un accordo che vedremo poi nei dettagli, in questo momento non sono in grado di dirvi quali sono i tempi, certo, di rimborsi eccetera, perché non sono ancora, insomma, non sono ancora stati annunciati. Dopodiché appunto Centeno aveva invitato, facciamo presto in modo tale da concentrarci sul Recovery Fund, che è il famoso fondo, sì, per quello, il rilancio dell'economia. Tra l'altro proprio oggi la Francia ha presentato una sua nuova proposta, nella quale appunto insiste sul fatto di eventualmente, se non fosse possibile, non bastassero i fondi del bilancio europeo, eventualmente fare di nuovo una iniziativa intergovernativa dove siano i paesi a essere i garanti dei prestiti, e il tutto naturalmente per il rilancio dell'economia europea, puntando sui settori più vitali, più competitivi, e qui dove l'Europa deve recuperare più competitività, dunque i grandi settori strategici, aerospaziale eccetera, le batterie auto verdi, poi appunto l'innovazione tecnologica, ecco, Adriana, tutto, sì. Una cosa, è chiaro che non abbiamo ancora i dettagli, c'è solo l'annuncio appunto che si è trovato l'accordo, però già c'erano state dichiarazioni in qualche modo per noi, insomma, che non dico soddisfacenti, ma ben auguranti, perché Dombrovskis aveva detto tutti a condizioni di sorveglianza molto light, poi Scholz ha detto sono fiducioso che oggi si arriverà a un accordo, e insomma da quello che si è capito questo MES, che non è che risolve i problemi, perché il grosso, come tu ricordavi, dovrebbe arrivare dal fondo recovery, quindi di rilancio, da 1.000 miliardi, vediamo 1.500, però questo MES, che per noi vuol dire più o meno la possibilità di ottenere 38-37 miliardi, cioè fino al 2% del PIL in spese sanitarie dirette o indirette, dovrebbe aver eliminato il dubbio più grosso che era sulle condizionalità, cioè che non è una volta che io lo attivo, poi fra qualche anno tu inizi a dirmi sì, ma siccome io ho usato quei soldi, adesso devi iniziare a tagliare di qua, a tagliare di là e su e giù, prego. Ieri la leggo, per questo mi sono ripetuta, ieri c'è stata la lettera di Dombrovskis e Gentiloni congiunta al presidente dell'Eurogruppo, nella quale si dice, Centeno, nella quale si dice con estrema chiarezza che non ci sono condizioni se non quelle della verifica delle spese, che siano in effetti state i fondi siano stati utilizzati in effetti per la sanità, spese dirette e indirette, quindi nell'indiretto ci può essere anche, che ne so io, il distanziamento nel trasporto pubblico, certo, adesso tanto per dire che è molto senso lato, insomma. Quindi è una condizionalità in questo caso più pro forma, ma certamente non è la condizionalità macroeconomica del prestito classico, che se dovessimo naturalmente chiedere un domani sarebbe sottoposto a quelle condizioni che sono quelle che sono state applicate alla Grecia, all'Irlanda. Quindi, ecco, perché è un altro MES. Questa linea no, questa linea è un'altra cosa. Quindi non è, c'è il MES, quello classico, e invece c'è il MES più leggero. Questa è questa linea Covid che è stata creata apposta, che non usa tutti i fondi del MES, che al momento sono 420 miliardi, ma ne usa 240. Questi destinati soltanto alla sanità, e su questi c'è questa condizionalità che è, diciamo, limitata al controllo dell'effettiva spesa per la sanità diretta e indiretta, spesa certo, legata alla sanità direttamente e indirettamente. Allora, speriamo che adesso di capire anche meglio. Io ringrazio Adriana Ceretelli, adesso vediamo di capire anche quando arriverà la conferenza stampa, però insomma, da questo punto di vista è abbastanza certo che si sia raggiunto l'accordo. Grazie anche a Adriana Ceretelli, non ho nessuna intenzione di rispondere ancora su le mascherine, i runners, va benissimo, corre, fare attività sportive, si chiede solo la distanza di 2 metri. Ho detto solo che se tu corri, come ho visto decine di volte, e passi in mezzo a gente che sta camminando di qua di là, non ci siamo capiti. Però vediamo se riusciamo a prendere questo tema in un altro modo. Allora, sono arrivati i dati sulla Gran Bretagna. Non devo certo ricordare a voi come si è mossa la Gran Bretagna e Boris Johnson all'inizio, la sottovalutazione, le lentezze a chiudere pub e ristoranti, la gente per strada, Boris Johnson che ipotizzava di fare l'immunità di gregge, poi lui è stato uno dei primi del gregge. Allora, vi dico perché il dato è uscito poco fa. La Gran Bretagna è balzata a 36.000 morti e quindi, ahimè, per i britannici è ampiamente il paese dopo gli Stati Uniti con maggior numero di morti. Si sono aggiunti 3.417 decessi dopo aver fatto altri controlli e altri tamponi. Dicevo 33.021, 36.000 contando pure la Scozia, Galles e Irlanda del Nord, dove purtroppo, lo dico con estrema preoccupazione e dramma, c'è stato anche un bebè di sole 6 settimane con patologie pregresse, per carità, fra le vittime britanniche. Lo dico perché vedo che anche la Svezia, c'è un'intervista bellissima al virologo che ha detto no, ma sono sorpreso dai dati. Cavolo, la Svezia è arrivata a 3.000 morti contro Danimarca e Norvegia, che invece hanno fatto la chiusura, la quarantena, che sono molto più bassi. Allora, o ripartiamo da qui, oppure facciamo finta che abbiamo scherzato. E voglio dire, nessuno vuole tornare a limitare le libertà individuali, ma io chiedo a tutti quelli che sono in ascolto, anche a quelli che mi mandano a quel paese, che mi insultano di qua di là, siete pronti a una nuova quarantena? Cioè, abbiamo capito se dovesse questa regione, che è la più indicata in Italia in questo momento per tornare alla fase 1 come nel gioco dell'oca, avete benissimo capito, non solo dal punto di vista economico ma anche psicologico, che cosa comporterebbe il ritorno a fase 1, che non si può più riuscire, che non si può più fare l'asporto, che è altro che navigli. Cioè, siamo tutti consapevoli di questo. Benissimo, traffico. Focus Economia. Di capire, beh, intanto è importante che il MES, sul MES sia trovato un accordo, vale appunto 500 la parte, diciamo, di MES sanitario vale circa 240 miliardi, per noi voglio dire appunto 38 miliardi, cioè il 2% del PIL di ogni paese. Ma al di là di questo, andiamo a capire invece la bozza, o anzi il brogliaccio, perché il Ministero ha chiarito, non è una bozza, non è un testo su cui stiamo lavorando, è un brogliaccio. Intanto, prima di tutto però, do il commento di borsa e poi arrivo al tema del il DL rinascita, dovrebbe chiamarsi così, se abbiamo decreto rilancio, scusatemi, dovrebbe chiamarsi il decreto che era prima aprile e poi adesso maggio. La borsa rapidamente più 1,13% Milano, più 1% Parigi, più 1,35% Francoforte, Londra chiusa appunto, Dow Jones più 1,5%, titoli, beni bancari, Banco BPM più 5%, Atlantia più 4,80%, Prismian più 4% come CNH, al 3,40% Buzzi Unici, il 2,5% Fineco e Poste Italiane, il 2,30% rialzi Campari di Fiat Chrysler e di Terna. Leonardo più 1,80 come XOR. Fronte opposto Moncler meno 1,5, Pirelli meno 0,80%. E questo, i dati sono molto negativi oggi sulla disoccupazione americana. Pensate che l'America ha toccato un tasso di disoccupazione mai così alto dalla grande recessione del 29, però paradossalmente, pur essendo volato al 15% quasi, il 14,7%, gli analisti si attendevano un dato ancora peggiore, un 16%, ed è stato preso come un buon dato. Ci sono però negli Stati Uniti già 20 milioni e 500 mila posti di lavoro persi dall'emergenza coronavirus. Ancora veniamo invece alle misure per il rilancio del paese. Gianni Trovati è in collegamento con noi. Buonasera Gianni. Buonasera, buonasera a voi. Dunque, allora, il DL rilancio, capito, si chiamerà così, dovrebbe avere 1,5 miliardi alla sanità, dare 1,5 miliardi per fronteggiare le nuove fasi, e 1,5 miliardi dovrebbe andare alla sanità del territorio, dando poi alle regioni e alle province autonome la possibilità di adottare i piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Poi si ragiona su una cassa integrazione da estendersi per 12 settimane, quindi sostanzialmente 3 mesi, non più 18, e ancora stop ai licenziamenti per 5 mesi e un bonus anche per chi ha il reddito di cittadinanza fino a 600 euro. Sono questi, diciamo, gli impianti più forti, poi c'è anche il resto, per carità, Gianni? E allora, il problema è che queste bozze che stanno circolando sono bozze ancora molto molto molto indietro sul piano dell'elaborazione politica, e quindi i temi e gli argomenti saranno sicuramente quelli cui dettagli occorre ancora aspettare, perché occorre che ci sia un accordo all'interno del governo su una serie di misure che naturalmente cambiano, diciamo così, l'impianto della distribuzione delle risorse. Comunque il faro di questo decreto, che finalmente ha perso il nome di intermese, che ha portato abbastanza fortuna nella sua fase gestazionale, quindi cerchiamo di avvicinare i microfoni Trovati, per favore, Gianni. Il decreto rilancio lo puoi fare quando vuoi, non è legato al mese, questo è già un passo avanti. Deve aspettare che si trovi l'accordo interno alla maggioranza sul tema degli aiuti alle imprese, accordo che ancora non c'è, però sta facendo un po' di forza l'idea di intervenire per le piccole e medie imprese con un taglio fiscale, un aiuto fiscale, in particolar modo per le ricapitalizzazioni, cioè meno Stato, meno intervento dello Stato e più aiuto fiscale. Bisognerà vedere naturalmente la traduzione pratica, ma è una via che va anche incontro, come dire, alle preoccupazioni espresse dalle imprese nei giorni scorsi. Allora, praticamente ci sono un insieme di agevolazioni fiscali. Vedevo la tassa del suolo pubblico fino al 31 ottobre, che porterà un minor gettito nei comuni, l'ipotesi bonus babysitter da 1.200 euro, 330 milioni di euro per la riapertura delle scuole a settembre, 150 milioni per la riapertura dei centri estivi, l'eco bonus addirittura potrebbe salire al 120% per la detrazione per le spese di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici, le bici buono da 70% fino a 500 euro, fondo da 150 milioni da librerie per librerie e musei, 280 milioni per lo spettacolo. Tra l'altro la tassa di soggiorno dovrà essere rifinanziata, perché arriveranno almeno 200 milioni di euro in meno. E poi l'ipotesi anche di tax credit vacanze fino a 500 euro sulla base del reddito, o 500 euro per se tu hai un nucleo familiare con due persone, 150 euro per una sola persona. Il credito sarebbe fruibile nella misura del 90% come sconto, del 10% come detrazione, e poi fondi per il turismo. Vorrei capire una cosa prima di salutare Gianni Trovati. Queste sono misure, adesso vedremo la conferma, che vanno sui singoli settori e danno, o permettono di non pagare, o danno dei soldi, penso ai babysitter o ai comuni, per i mancati introiti. Però è da giorni, Gianni, che noi ragioniamo di alcuni settori, e penso di nuovo turismo, alberghi, ristorazione, che avranno bisogno anche a agosto, settembre, probabilmente di soldi a fondo perduto, cioè che non riusciranno, non dico a recuperare le quote perse, ma neanche a fare media come magari molte attività manifatturiere che adesso che sono riaperte si spera tornino a esaudire gli ordini e a vendere e tornino all'attività regolare. Laddove ci sono consumi dettati anche da un atteggiamento culturale, appunto vai o non vai in albergo, vai o non vai al ristorante, sul fondo perduto è ancora presto? No, sul fondo perduto ci dovremmo quasi essere, si discute ancora soglie eccetera, però per le piccole imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato questa soglia potrebbe essere rivista. Ci sono aiuti a fondo, ci sono previsti aiuti a fondo perduto per fasce misurate sulla base del fatturato e della perdita di fatturato, cioè per i più grandi tra i piccoli, quindi vicino ai 5 milioni di euro che hanno subito le perdite di fatturato maggiori, il fondo perduto dovrebbe, un aiuto a fondo perduto dovrebbe arrivare tra gli 85 e i 100 mila euro, a scendere naturalmente con la diminuzione del fatturato e con la diminuzione della perdita. Però su questo io non ho capito solo una cosa, pensi che sarà dentro il DL rilancio o potrebbe fare parte di una misura a sé stante? Parlo dei soldi e iniezioni di soldi a fondo perduto. Si punta a inserirlo nel DL rilancio, dovrebbe, salvo sorprese, essere nel DL rilancio, perché questo è permesso anche dalle modifiche in arrivo da Bruxelles sul quadro regolatorio degli aiuti di Stato. Quindi il tentativo. Sì, perché sono aiuti di Stato, certo. Esatto, il tentativo è di metterlo nel decreto rilancio, quindi nel prossimo decreto che dovrebbe arrivare in questi giorni. Allora, grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Adesso andiamo sul GR24, poi commenteremo i dati della Protezione Civile. E poi invece parleremo con le categorie, continua il nostro viaggio nelle categorie produttive, oggi è la volta degli artigiani. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Radio 24 è sempre con te, ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi ancora di più. Resta a casa, noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta e contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi, anche su Sky al canale 749 e su TV Sat. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Il segnale orario vi è offerto da Burro e Formaggi Brazzale, i più elevati standard di verde e benessere animale. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma li leggi i giornali? Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist.com. In questi giorni abbiamo compreso il valore della parola indispensabile. Gli amici, gli affetti e la spesa. Per aiutare la comunità a ripartire, fino al 31 agosto aggiungiamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi sempre bassi e fissi. Mai così tanti, mai così a lungo. Conad, persone oltre le cose. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso andiamo anche a altre posizioni su questa bozza di DL Rilancio Italia e quello che chiedono le categorie. Devo dare però l'aggiornamento sulla situazione, sul comunicato della Protezione Civile. Dunque, I dati sono positivi sul numero di guariti e sono saliti a 2.747 più 2,8%, con un dato un po' più basso rispetto a ieri, ma insomma nella media un po' più alto rispetto alla media della settimana. I positivi sono calati di 1.663. Ieri erano calati di 1900, ma anche il giorno prima di 6000, martedì di 1500, però il dato è molto alto se riferito a tutte le settimane precedenti. I guariti sono aumentati di 2747 e anche questo è il dato, è un più 2,8%, in linea con non tanto ieri, l'altro ieri, ma soprattutto i giorni precedenti. Il totale dei contagi è più 1.327, più 0,6%, il che porta il numero complessivo dei contagiati, inclusi anche gli attualmente positivi, le vittime guarite, a 217.000. L'incremento su ieri è 1.327. Terapia intensiva è buono il dato, meno 10%, quasi 11% in meno. È un dato più forte come calo da un bel po' di giorni, direi come percentuale da quando lo stiamo conteggiando nelle ultime settimane. Meno 10,9% sono 143 persone in terapia intensiva in meno, e i ricoverati, anche questo il dato è buono, sono meno 500, sono meno 4,1%, meno 538. Dove non è il dato è ancora non è buono è sui decessi, sono meno di ieri ma sono ancora sopra stabilmente i 200 243. Ieri erano 274, il giorno prima 370, martedì 236, lunedì 195. La settimana che si sta chiudendo vede un calo, diciamo, dei decessi intorno in media al centinaio in media rispetto alla settimana prima, però sono ancora sopra i 200, mentre altri paesi, penso alla Spagna, sono scesi già sotto i 200, più 0,8%, di cui, se ho ben capito, quasi 100 in Lombardia, quindi si conferma una media di quasi un po' meno della metà questa volta decessi in Lombardia. Allora, restiamo sul DL rilancio, meglio sulla fase 2 dal punto di vista economico, perché ieri ne ha parlato anche il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Piazza Pulita. Ha detto sostanzialmente le misure previste per ora non vanno, occorre tagliare l'IRA per pagare i debiti della pubblica amministrazione alle imprese private e sbloccare i fondi già finanziati per le opere pubbliche. Siamo molto delusi perché le risorse sono state messe in campo, parliamo appunto dell'ultimo decreto di 55 miliardi, ma non arrivano, non hanno i loro effetti. Primo decreto, viene fatta la CIG, correttissimo, ricordo che la doveva pagare lo Stato non l'ha ancora pagata, la stanno anticipando tutte le imprese, sapendo i problemi di liquidità che hanno le imprese. Liquidità, è inutile che entro, ne avete parlato abbastanza. Una follia pensare di dover intervenire laddove il tempo è il nostro nemico, ma poi vengono messi 19 documenti per poterla ricevere, sappiamo benissimo dove va, e quest'ultima non sta andando nella direzione che chiediamo. Noi abbiamo chiesto espressamente un taglio dell'IRAP, perché bisogna fare qualche cosa di urgente, veloce, semplice e che semplifichi. Se dobbiamo dare un contributo a fondo perduto di 2.000-3.000 euro ai vari piccoli e medi imprenditori, ma quanti documenti dovranno presentare? Quando gli arriva? A giugno abbiamo l'acconto delle tasse. Togliamolo. Togliamo una tassa che è peraltro odiata, una tassa che più o meno cuba 9 miliardi lo stesso intervento che vuole fare lo Stato. È semplice, automatica, l'imprenditore non deve fare nulla e soprattutto ci toglie una dichiarazione, fa semplificazione fiscale. E poi il tema del reddito di cittadinanza dei navigator, dice Bonomi, tagliare i navigator, ricorderete i 2000, più di 2000 navigator assunti a tempo determinato per trovare lavori a tempo indeterminato ad altre persone. Qui so che sembra voler dare la ragione al presidente di Confindustria, però l'abbiamo sempre detto che la reddito di cittadinanza funzionava e sta funzionando come politica di welfare, cioè come un incremento del reddito di inclusione già lanciato dal governo Gentiloni in maniera più massiccia e con più soldi. Quindi serve anche adesso, a maggior ragione adesso, per eliminare o cercare di ridurre sacche di povertà, quindi come misura di assistenza sociale. Era sbagliato, a mio avviso, follia, pensare che con una misura di welfare che la misura di welfare potesse diventare anche una misura di politica attiva per il lavoro, cioè permettere di ridurre la disoccupazione. Lì intervieni dove c'è una povertà che si è cronicizzata, vuoi per una pensione minima troppo bassa, vuoi perché hai perso il lavoro, ti manca qualche anno la pensione, e intervieni dando un contributo che io potrei anche chiamare di dignità. Altra cosa è tutta la costruzione sui navigator che avrebbero trovato lavoro con le agenzie per il collocamento. Comunque Bonomi sui navigator. Proprio in questi momenti noi abbiamo chiesto allo Stato di defiscalizzare quelli che sono gli interventi che fanno le imprese a favore dei lavoratori laddove c'è una CIG, dove ci sono delle riduzioni di orari di lavoro. Se noi possiamo intervenire a integrare il reddito, ma perché ci devi tassare a noi e al lavoratore? Io stesso, per quanto riguardava il reddito di cittadinanza, dicevo che la componente del reddito di cittadinanza che andava a intervenire sulle persone che non avevano reddito era corretto. Questa grande risorsa della Repubblica che si chiamano Navigator è stato un grande fallimento, continua a costarci una marea di miliardi e nessuno vuole ammettere che non funziona e va cancellata, perché non credo che i problemi di disoccupazione a cui purtroppo andremo incontro li risolveranno i Navigator. Allora, adesso andiamo sul traffico e poi voglio sentire anche il punto di vista degli artigiani. Come sapete, come sa chi ci ascolta, stiamo continuando da quando è iniziata questa emergenza a farci raccontare dalle varie categorie produttive cosa sta succedendo, e oggi appunto è la volta del mondo artigiano. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Adesso parliamo del mondo artigiano. Vedo che adesso le agenzie battono che lungo tutti i navigli ci sono auto della polizia locale, una della polizia, una della guardia di finanza, con agenti a piedi che pattugliano la darsena e poliziotti che fanno su e giù sulle sponde del naviglio. Sì, adesso navigli ma anche parchi, aggiungo io. Qualcuno dice, alcuni ristoratori dicono così, i navigli sembrano militarizzati, bastavano 4 vigili come deterrente, ho capito. Però o l'uno o l'altra, ma anche i parchi, andate anche nei parchi, insomma. Comunque il mondo artigiano, ne vorrei parlare del mondo artigiano con chi rappresenta la più grande organizzazione italiana dell'artigianato della micro e piccola impresa, ossia 21 federazioni regionali per 1,5 milioni di imprenditori artigiani rappresentati, con 3 milioni di addetti complessivamente. E allora grazie al segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Dunque, intanto mi dia un commento. È chiaro che è una bozza, è un documento, ancora un brogliaccio provvisorio. Come sta andando, quello che le segnalano i suoi associati, il tema dei prestiti? Perché il vostro è un mondo che classicamente, poi ci sono anche artigiani che hanno fatturati ancora più robusti, ma io lo immagino essere uno di quelli più interessati al prestito fino a 25.000 euro, ossia fino al 25% dei ricavi, con il 100% di garanzie da parte dello Stato. Prego. Sicuramente non come c'era stato raccontato, era sembrato nel racconto del Presidente del Consiglio che ha preceduto di 10 giorni il decreto e che poi ha visto altri 10 giorni per la messa a punto del passaggio in Europa, del circolare dell'AVI, della distruzione delle banche, quindi abbiamo messo in mezzo altri 20 giorni. Finalmente con le domande presentate oggi siamo in presenza di una grande delusione, perché dai nostri osservatori sul territorio il riscontro è che ad oggi un 30% ha presentato la domanda, perché intanto il tempo era troppo tempo era passato, il 30% ha presentato domanda, di questi la metà circa hanno avuto i soldi accreditati e questo non risponde sicuramente, oggi siamo arrivati all'8 di maggio, non risponde sicuramente alla necessità per la quale anche noi per prime avevamo chiesto la liquidità, che era evitare l'infarto della circolazione commerciale, evitare che la fine mese fosse la tempesta perfetta con gli effetti domino dei mancati pagamenti delle casse di fine mese, delle ricevute, di tutto quello che costituisce l'ordinaria circolazione commerciale. Quindi le cose sotto il profilo della liquidità sicuramente non stanno andando neanche adesso che un po' si è rodata la ecco, posso la però fare allora, questo è da settimane che stiamo seguendo il tema dei 25.000 euro, continuano però a scrivermi, glielo dico Presidente, che magari può girare anche ai suoi associati e potete come Confartigianato dare una mano agli associati. Continuano ad arrivarmi messaggi di bancari, non di banchieri, che dicono guardate che nella maggior parte dei casi dobbiamo rifare tutto il modulo con perdite di tempo ancora più prezioso, perché c'è un problema nella compilazione dei moduli. Ora mi rendo conto che le famose 19 pagine non aiutino, però forse c'è anche un... No, sono 4 pagine, guardi, io credo poco a questa ipotesi, sono 4 pagine che richiedono 19 allegati. 19 allegati, ha ragione, 19, sono 4 pagine con 19 allegati, certo. Sono 4 pagine apparentemente semplici, ma il problema che stiamo riscontrando, guardi, non è la compilazione del modulo. Quelli che hanno avuto la pratica approvata, i soldi in conto, sono i rating migliori. Quelli che avrebbero avuto lo stesso i quattrini, anche senza la garanzia al 100%, e tutto purtroppo quel po' di risorse pubbliche si stanno mettendo in ballo. Quindi la rabbia è doppia, perché vuol dire un'operazione che ha visto stanziare delle risorse per le modalità, per i tempi, eccetera, la si sta vanificando. Anche perché adesso ormai si è ingenerata l'attesa del mitizzato contributo di ristoro dei fatturati perduti, e quindi intanto poi si è dilatato anche, dicevo, il tempo. Questa è una componente decisiva. Noi abbiamo ancora qualche centinaio di migliaia di imprese che non hanno ancora potuto riprendere l'attività e hanno la prospettiva di stare ferme a lungo nel tutto il comparto del benessere e acconciatura estetica, che alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dovrebbe aprire il 1° di giugno. Pare di capire, per fortuna, anche dall'incontro che abbiamo fatto l'altro ieri proprio con il Presidente del Consiglio e gli altri ministri, di una possibile anticipazione, però prima delle scadenze di riapertura. Per regioni, anche Boccia oggi ha riconfermato il ministro che dal 18... C'è la questione di riapertura, la seconda è decreto aprile, 8 di maggio, risottolinea, è un altro modo ancora che si sta perpetuando tra l'annuncio, la creazione di attese, e seguirà la delusione di attese. Noi sul fronte del contributo a fondo perduto ci siamo dichiarati da subito a favore di una possibilità che sia, per quel che sarà, per le che si potranno mettere in campo, ma proporzionale alla vita. Sì, no, ma sono d'accordo, perché un conto sono i 600 euro che erano stati dati in periodo di emergenza. Poi il contributo a fondo perduto, siccome sono soldi nostri, non è che siano soldi di qualcun altro, è giusto dare in maniera proporzionale per due motivi, secondo me. Intanto perché in questo modo tu vai veramente in maniera più precisa a ristorare chi ha avuto perdite maggiori. E poi, lo dico senza polemica, perché se tu lo fai proporzionalmente al calo del fatturato, dovrai certificare il calo del fatturato, chi aveva parte del fatturato in nero, questo giro la prende in quel posto, perché tu chiaramente, se hai nascosto negli anni scorsi il fatturato, il calo del fatturato che puoi certificare è più basso di quello reale che hai avuto. Vedo adesso, lo dico segretario, che nelle bozze del DL sta emergendo anche la possibilità di, e speriamo che sia confermata, di avere una maggior forza nell'auto. Eccola qua, il DL rilancio, più autodichiarazioni e autocertificazioni per le aziende che chiedono alle banche i prestiti garantiti dallo Stato, in modo da procedere, da velocizzare il processo di erogazione. Senta, tornando invece al ristoro, io spero che questa cosa bancaria poi si risolva. Quando le dice in maniera proporzionata, intende dire chiaramente su base del fatturato, ma anche sulla base del settore? Beh, io dico intanto sulla base di fatturato, perché qui ci sarà una soglia. Finora hanno usato due filtri, per la liquidità, chi ha avuto perdite superiori al 25%, per lo spostamento dei versamenti tributari e contributivi, chi ha avuto perdite superiori al 33%, quindi superiore a una cosa che sarà fra il 25 e il 33%, immaginiamo, quindi con la possibilità nei confronti di questi soggetti, quindi già individuando, escludendo di necessità chi ha perdite inferiore a quel primo filtro, e cercando di essere più proporzionali possibili. E anche sulla modalità, può essere in termini di erogazione, ma può benissimo essere anche in termini di compensazione. Io credo che non possiamo continuare a riempirci la bocca di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Siamo l'unico paese al mondo che ha la fatturazione obbligatoria dal 1 gennaio 2019. Sanno benissimo cos'è stato il fatturato per ogni soggetto del marzo 19 rispetto a marzo 2000. È vero. Sanno benissimo per ognuno dei mesi. Potrebbe essere un provvedimento che mese su mese, man mano che si chiude, con l'elaborazione dei dati già posseduti, se teniamo conto che dal 2011 l'amministrazione possiede anche tutti i dati dei nostri conti correnti, potrebbero far arrivare senza che nessuno debba fare né autocertificazione, né click day, né altre follie a cui abbiamo assistito in questi 60 giorni. Allora, le giro una media di un ascoltatore, un messaggio. Abbiamo avuto il prestito dei 25.000 euro, ma solo per le nostre garanzie personali e il nostro buon rating. Certo. Evidentemente le banche non hanno fiducia nello Stato. Questa è una cosa incredibile, ce l'hanno già segnalata altri ascoltatori. E quello, è quello che le dicevo. Che le banche dicono... Ma hanno avuto il 30%, chi li avrebbe già presi per i fatti suoi. Sì, però adesso anche le banche, porca miseria, altro che cuore e amore... Qui le banche devono capire che se la garanzia è il 100% dello Stato, non possono porre altre non ci fidiamo dello Stato. E se non ti fidi dello Stato, cosa hai comprato l'obbligazione a fare? Visto che in pancia ne sono pieni. Anche perché in quel modo non devono accantonare capitale di rischio. Poi, prosegue questo ascoltatore, abbiamo anticipato la cassa integrazione agli operai senza ricevere un euro, perché in questo caso, se ben ricordo, poi l'imprenditore si rifà sull'INPS, se è cassa integrazione ordinaria. Ma il mese prossimo non potremo. Inoltre c'è un boicottaggio finanziario tra le aziende, cioè le aziende non si pagano tra di loro per mancanza di liquidità. Se non arrivano un po' di soldi, l'unica soluzione è chiudere per conservare una piccola quota di capitale. E io continuo a dire alle banche: state attente, perché se va giù la dorsale economica del paese, fatta anche di piccoli e medi imprenditori, il problema le banche ce l'avranno fra un po' con l'aumentare delle insolvenze, dei prestiti già fatti. Meglio tenere in vita, anche perché hai tutta questa garanzia statale adesso, che non trovarsi di nuovo con gli incagli e le sofferenze. Le stime da questo punto di vista del calo di fatturato, per concludere, segretario, che voi avete, quali sono? Su marzo, ma fortissime su aprile. Io spero sia l'ultimo mese con questo livello. Noi abbiamo un 70% di calo del fatturato sul mese, 71% sul nostro campione sul mese di aprile, un dato drammatico che non deve assolutamente ripetersi per maggio. Per non ripetersi occorre che riaprano tutti, occorre che chi riapre sia messo nelle condizioni di avere la liquidità. I prestiti servono per andare avanti nell'attività, non possono arrivare per celebrare il funerale delle imprese. E l'altra è questa partita del fondo perduto, per quello che sia, non va lasciato aperto a lungo, deve essere erogato anche questo rapidamente e anche con le modalità di compensazione. Torno a sottolinearlo, l'amministrazione finanziaria è in grado di poter fare le compensazioni. Se devo versare degli importi che saranno spostati per le scadenze, posso già parzialmente recuperarli per quello che mi assegneranno, senza anche qui far correre quattrini attraverso ancora i canali bancari. Allora, io non voglio fare il turno brown fashion, ringraziare, faccio notare che alcuni mi scrivono, per esempio le banche di credito cooperativo trentino hanno collaborato, erogato finanziamenti nell'arco di 48 ore, ma abbiamo diverse casi, figuratevi, abbiamo raccontato anche decine di casi di prestiti arrivati nell'arco di 10 giorni con il tasso tra l'1,5% e l'1,7%, non mi sembra un tasso cattivo. Quello che io non mi spiego è, a fronte di tante segnalazioni positive, perché vi siano anche tante segnalazioni negative. Cioè la garanzia dello Stato vale per tutte le banche, non vale solo per alcune. E mi viene sospetto che sia un problema anche di volontà. Senta Presidente, in bocca al lupo a lei e a tutti i suoi associati, perché anche il mondo dell'artigianato è uno dei mondi in questo momento più colpiti, lo continuo a dire, non tutti i mondi sono colpiti nello stesso modo, quindi in bocca al lupo a tutti gli artigiani italiani. Grazie al segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli, un ringraziamento anche come sempre a Maria Sole Lisciandro e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio. Un augurio a voi di un buon fine settimana al parco, con distanziati, con la mascherina, se andate a correre distanziati, senza passare in mezzo alla gente. Se volete prendere una birra da sport, prendetela, bevetela dove cavolo volete, non fate resse e soprattutto portate sta cavolo di mascherina. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.